24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Oggi la Grecia in apertura, il presidente dell'Eurogruppo Juncker, dopo l'incontro con il premier greco Papandreou, ha confermato che l'Unione Europea darà il via libera al nuovo piano di aiuti per Atene con la partecipazione anche delle banche private. In primo piano anche il processo all'Aia, Ratko Mladic, il boia dei Balcani, ha dichiarato ai giudici: contro di me accuse odiose, ho difeso il mio popolo. Fissata per il 4 luglio la nuova udienza. Intanto aumenta in Europa la psicosi per il batterio Escherichia coli. Dalla Germania arrivano però rassicurazioni: la diffusione dell'epidemia si è stabilizzata. Ma partiamo dalla Grecia e dai nuovi aiuti stanziati dall'Unione Europea. La Troica, composta dai tecnici dell'Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale e Banca Centrale Europea, ha dato il via libera ad Atene alla quinta tranche del prestito da 110 miliardi di euro. In cambio Atene dovrà fare nuove misure di austerità e di riforme strutturali. Parallelamente a Lussemburgo, il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, ha dato il via libera a un nuovo piano, che si stima di 60 miliardi di euro, che consentirà di rinnovare i bond greci in scadenza nel biennio 2012-2013, visto che Atene non riuscirebbe a tornare da sola sul mercato. Inoltre, le banche private dovrebbero essere coinvolte volontariamente nel rinnovo dei loro titoli in scadenza, venendo così incontro alle esigenze tedesche, che volevano una partecipazione del settore privato, anche oltre a quello dei contribuenti, al nuovo salvataggio della Grecia. Vittorio Darold, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E gli stili europei hanno rialzato la testa sul finale grazie alle buone notizie dalla Grecia. Francoforte ha chiuso a più 0,49%, stabili le borse di Londra e di Parigi. La borsa di Atene ha terminato la seduta con un balzo del 4,4%, positiva anche Piazza Affari. Il successo dei negoziati per il via libera a una nuova tranche di aiuti internazionali alla Grecia ha sostenuto le borse europee sul finire della seduta. Piazza Affari ha così terminato l'ultima giornata della settimana in rialzo dello 0,4% sul FTSE All Share e dello 0,53% sul FTSE MIB. Sotto i riflettori Fiat, che ha guadagnato il 3,59% dopo aver annunciato l'accordo con il governo statunitense per l'acquisto del 6% di Chrysler. Il lingotto sale così al 52% della casa di Detroit, raggiungendo la maggioranza assoluta del capitale. In evidenza anche Intesa San Paolo. I titoli dell'istituto hanno messo a segno un progresso del 4,92% con volumi intensi nell'ultimo giorno di negoziazione dei diritti relativi all'aumento di capitale da 5 miliardi. Paolo Paronetto da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo all'Aia. Можете продолжити. Схватио сам шта ме питате. Ho capito, potete procedere. La voce che avete sentito è quella di Ratko Mladic, ex generale serbo-bosniaco accusato di essere uno dei massimi responsabili dell'eccidio di 8.000 musulmani bosniaci a Srebrenica. È apparso davanti ai giudici del Tribunale Penale Internazionale all'Aia, completo giacca e cravatta blu chiaro, a righe, con in testa il suo berretto, che si è tolto prima di fare le sue prime dichiarazioni. Si è presentato ai giudici con piglio deciso, dicendo: sono il generale Ratko Mladic. Poi ha aggiunto di essere molto malato ed avere bisogno di tempo per leggere le accuse. Sentiamo Elena Ragusin. Ratko Mladic ha subito invocato un rinvio dell'udienza per poter avere i termini, ha detto, per vagliare meglio la documentazione d'accusa che gli è stata presentata. Però ha subito messo le mani avanti, per l'appunto, dicendo che si tratta di accuse odiose e affermando di avere agito per il bene del suo popolo. L'udienza è stata aggiornata al 4 luglio, però Mladic sembra aver adottato la sua linea di difesa in modo molto diverso da quella di altri imputati eccellenti come Slobodan Milosevic o Radovan Karadzic. Mladic infatti non sembra intenzionato a ricusare l'autorità del tribunale stesso e pare essere intenzionato a ribattere punto per punto le accuse di crimini di guerra e genocidio che saranno avanzate dal tribunale nelle prossime udienze. Aumenta in Europa la psicosi per l'epidemia da Escherichia coli, una variante nuova molto pericolosa per l'OMS che finora ha colpito in 12 paesi uccidendo 18 persone, di cui 17 in Germania e una in Svezia e contagiandone almeno 2.000. Tre persone rientrate negli Stati Uniti della Germania sarebbero state a loro volta contaminate. Fonti sanitarie tedesche ieri hanno fatto sapere che la diffusione dell'epidemia si è stabilizzata. L'origine dell'epidemia da Escherichia coli resta un enigma. Aumenta la paura e non solo in Germania, dove l'epicentro dell'infezione resta il nord del paese. E Amburgo, la città più colpita, seguono Bassa Sassonia e Vestfalia. In tutto sono 12 paesi coinvolti, 11 europei più gli Stati Uniti, e tutti risultano avere un legame con la Germania. Il batterio killer sembra particolarmente aggressivo e resistente agli antibiotici e i pazienti vanno trattati con terapie idratanti. L'epidemia preoccupa il 62% dei cittadini europei, che sale al 79% in Italia. Lo afferma Coldiretti, che sottolinea come dopo le rassicurazioni del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità, l'unico vero danno per l'Italia in questo momento sia quello economico per i produttori agricoli. Le tensioni commerciali in Europa sono accresciute dalla decisione della Russia di vietare l'importazione di frutta e verdura dall'Unione Europea, decisione che viola le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e per la quale Bruxelles ha chiesto spiegazioni ufficiali. Spagna e Portogallo invece, dopo l'infondata accusa d'aver causato l'epidemia coi loro cetrioli, ora si pensa più ad acqua contaminata, vogliono adesso il rimborso dei danni. Serve dunque fare subito chiarezza, perché la psicosi del batterio killer rischia di essere devastante non soltanto per la salute, ma anche per l'economia. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Russia che blocca le importazioni di ortaggi e legumi freschi da tutta Europa, Bruxelles che parla di una decisione sproporzionata, la Spagna e il Portogallo che chiedono di essere indennizzati, il cetriolo iberico scagionato, la Germania presunto focolaio primario dell'emergenza. E l'Italia alle prese con la conta economica della nuova psicosi alimentare, a 10 anni esatti dal primo caso di mucca pazza che già significò oltre 2 miliardi di danni ai consumi. Per assicurare i consumatori italiani e fare una verifica del trattamento igienico di questi ortaggi, i carabinieri dei NAS hanno sequestrato a scopo preventivo 7 quintali di cetrioli che saranno analizzati, senza fissare al momento controlli aggiuntivi su altri alimenti. Ma a pesare in Italia, secondo Coldiretti, è soprattutto la decisione russa. Le esportazioni complessive europee di verdura verso quest'area valgono fra i 3 e i 4 miliardi di euro all'anno, ha fatto sapere la Commissione europea, mentre l'Italia esporta ortaggi e legumi per 4,4 milioni di euro l'anno. Per l'Organizzazione degli agricoltori si tratta di allarmismo ingiustificato, ma intanto la nuova psicosi europea ha colpito duro le esportazioni nazionali di ortofrutta con perdite di 20 milioni di euro. Deborah Rosciani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 150 corpi sono stati trovati al largo della costa tunisina. Si tratta con ogni probabilità dei migranti che erano a bordo del barcone andato in avaria nei giorni scorsi, partito dalla Libia e diretto a Lampedusa. La notizia è stata data da un funzionario dell'ONU. Una nuova tragedia nel canale di Sicilia. Non siamo ancora a metà dell'anno, ma il 2011 è già il più nero per la conta delle vittime nel canale di Sicilia. Fino ad ora l'anno horribilis era il 2008, quando, nella speranza di raggiungere le coste europee, si contarono 1.274 vittime a fronte di 36.000 arrivi in Sicilia. Numeri già impressionanti, ma spazzati via da questo inizio d'anno, con già 1.615 nomi che mancano all'appello da quando è cominciato l'esodo dalle coste del Nord Africa. A tenere il conto l'osservatorio Fortress Europe, un conto necessariamente per difetto che esclude le segnalazioni senza conferma dei battelli fantasma che non lasciano traccia se non il sospetto di altre morti. 1 su 10 non ce la fa ad attraversare il Mediterraneo, ma nonostante questo si continua a partire tra vecchie e nuove rotte. 2 quelle che si incrociano in questi mesi nel canale di Sicilia, la prima dalla Tunisia, la seconda dalla Libia. E per quanto la seconda sia sulla carta la più semplice per scafisti e barconi mal ridotti, è qui che si muore di più. Sulla rotta libica i morti sono stati già oltre 1.200. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Voltiamo pagina. Lo scandalo calcio scommesse, un male che non è solo italiano ma colpisce anche altrove in Europa. La UEFA lo monitora da alcuni anni con sistemi telematici che individuano le scommesse sospette. I paesi europei considerati più a rischio sono quelli balcanici e la Grecia. Un male difficile da estirpare anche con le moderne tecnologie, dice Leo Grosso, presidente di Assocalciatori Mondiale. in sede FIFA è stato risollecitata tutta l'attenzione possibile su questo, che è un fenomeno che preoccupa tutti da tanto tempo. La cosa che si può fare, ma temo che non sia assolutamente esaustiva ed efficace definitivamente, è di monitorare questo fenomeno. Lo stanno facendo anche con dei supporti informatici, no? Con un controllo sulle partite, ma se considerate di quante partite si può parlare e di dove e come si scommette in tutto il mondo, davvero è una prova assolutamente incubata. È tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.